24 mattino, l'Italia si desta. L'Italia si desta, dunque, sono le 7:15 minuti. Un saluto da Gigi Donnelly, ancora questa settimana qui al microfono a 24 mattino, naturalmente fino a poco prima delle 9. Si comincia subito con i temi principali della politica, dunque i leader parlano parecchio, naturalmente il clima è lanciatissimo da campagna elettorale. Vi ricordo, questa mattina a partire dalle 9 Angelino Alfano sarà qui ai nostri microfoni. Insomma, la politica di fatto non ha mai smesso in questo passaggio d'anno, non ha smesso dalle nostre parti in vista delle elezioni politiche, di certo non ha smesso negli Stati Uniti, dove anzi, come abbiamo sentito non più di 10 minuti fa dalla nostra Valentina Furlanetto, in realtà il presidente degli Stati Uniti è andato in vacanza adesso, dopo aver regolato questa questione del fiscal cliff, regolato quantomeno, evitato che scappasse di mano, così almeno i commenti già online il pomeriggio di ieri e stamattina sui quotidiani americani, insomma il New York Times è abbastanza prudente sul risultato ottenuto. Intanto, a questo proposito, la prima pagina del Sole 24 Ore che dice proprio, apre sull'intesa fiscal cliff più tasse oltre i $400,000, intesa tra Obama e i repubblicani del Senato, l'aliquota sale dal 35 al 39,6% e soprattutto dunque recuperati 600 miliardi. Prima di proseguire per la consueta rassegna stampa vi anticipo oggi parleremo più tardi nella seconda parte di 24 mattino anche di temi che riguardano di fatto tutti, ma in maniera specifica migliaia e migliaia di italiani che sono colpiti direttamente o all'interno dei propri affetti, delle proprie famiglie, da quella davvero sterminata pattuglia d'attacco che è rappresentato dalle malattie rare. Sono nomi che spesso non ci dicono nulla, sono patologie complesse che emergono, tra l'altro appunto patologie che fanno parte di un elenco che non è quello classico delle malattie, sono patologie che richiedono più di altre un continuo sforzo di ricerca proprio per conoscerle, capirle e affrontarle. Sentiremo come in alcuni casi una parte stessa del problema sia l'ignoranza diffusa, l'incapacità nostra anche in ottima buona fede di non saperci relazionare di fatto con queste malattie. Ne parleremo, lo ricordo, più tardi dalle 8:30 e poi naturalmente, dico naturalmente perché ve l'avevo anticipato nei giorni scorsi, avevamo un appuntamento previsto con la satira, siamo in campagna elettorale, quindi come dire, il materiale umano, i contenuti non manca di sicuro. Avremo con noi Vincino in un giorno che segna il ritorno per quanto riguarda il tema internazionale della satira di Charlie Hebdo sui temi che hanno portato appunto la pubblicazione francese di fatto a una notorietà planetaria per polemiche anche molto dure sui temi della religione. Oggi Charlie Hebdo ha annunciato la pubblicazione di un numero dedicato di nuovo a Maometto, quindi ai temi religiosi e a tutto quello che più nei nostri tempi suscita reazioni virulente. Ma insomma, i quotidiani adesso. E allora la politica, come vi ho annunciato, Monti, tagliare le tasse di un punto, e questo è il titolone di stamane di Repubblica. Con il 2013 spunta la TARES, il peso dell'erario a livello record del 45,3%. Intanto un coro di sì al discorso del capo dello Stato, ovviamente al discorso di fine anno. Il problema della pressione fiscale, il Quirinale dice questione sociale al primo posto. Facciamo una veloce visione d'insieme, appunto effetto campagna elettorale e discorso del Presidente della Repubblica. Questa era appunto Repubblica per il giornale. È Napolitano torna alla Prima Repubblica per far fuori la destra, così il commento, l'introduzione, il titolo a introduzione del commento di Vittorio Feltri, la strategia del Colle viene indicata e a tutta pagina da oggi siamo più poveri, questo è il buon anno dei professori agli italiani. La vera eredità dei tecnici

appunto la testata francese rinnova e rilancia la presentazione della vita di Maometto a fumetti, si interroga di nuovo su questa questione che al di là delle considerazioni è in fondo una delle misure della società in cui viviamo, di un livello di intolleranza che negli anni precedenti a quel 2006, a quel 2001 potremmo dire, era del tutto impensabile. Salutiamo con noi questa mattina il direttore del Male insieme a Vauro Vincino. Buongiorno, grazie di essere con noi. A proposito di grandi testate, testate storiche, il Male ovviamente per chi ha qualche annetto in più è il ritorno del Male, e subito, visto che abbiamo citato il web, ilmale.net, ecco, i colleghi francesi sono alle prese con le sfide di fatto sui temi della religione, noi con la campagna elettorale. Allora vorrei un suo commento prima sulla Francia e su questa vicenda. Ma siamo più fortunati noi forse con la campagna elettorale. Questo. Assolutamente. Là è una cosa, non è che parte da 7 anni, parte da quanto? Da 2000, da 1500 sì. anni, 1400 anni, qualche cosa di simile, no? Come dire, la satira ha sempre raccontato il mondo in tutte le sue parti, in tutte le sue storie, senza fermarsi mai di fronte a niente. Peraltro i francesi sono partiti sempre molto prima, no? Charles Bidot parte dal 68, forse anche prima, Le Canard de Chenet parte dal 1912-13, qualcosa di simile, no? E quindi io sono loro sono i maestri, no? Mi seguo loro, li ammiro e con affetto sono con loro. Quindi un augurio di buon anno. Ieri ho detto appunto su questi temi è bene anche essere chiari, ieri ho detto sono assolutamente d'accordo con Vincino, con gli amici colleghi di Charlie Hebdo nella loro battaglia per il diritto a esprimersi, indipendentemente dal fatto che la satira poi, e probabilmente per essere tale deve farlo, dà fastidio e affronta dei temi che sono evidentemente a volte addirittura scabrosi. Come diceva Vincino, da noi la situazione è diversa, anche perché in fondo sulla politica ci concediamo spazi ben più ampi. Allora, avete sulla religione ce ne siamo concessi, sulla nostra specialmente. Sulla nostra specialmente, effettivamente. Ecco, allora, 2 mesi di intensa attività per chi fa il suo mestiere, i suoi colleghi, quindi un periodo anche di grande raccolta con una campagna elettorale che è già lanciatissima? Assolutamente, una campagna elettorale che è divertentissima in questo momento, è piena di spunti, poi come dire, da tutti i lati, le regionali, le nazionali, le monti, che 4 liste, 7 liste, era partito da una lista, no? E oggi siamo già su 14 liste e mezzo, qualche cosa. Poi la cosa bella è che loro stanno raccogliendo le firme senza avere ancora i candidati, loro in realtà le firme le devono raccogliere sotto il nome dei candidati, ma questo, come dire, divertente perché lo fanno sempre tutti, cioè tutti imbrogliano e tutti barano, e l'imbroglio comincia dalla raccolta, da prima dal gioco di poker, no? Dice Cesa sì, Cesa no. La cosa divertente di Cesa è che è l'unico politico che è stato latitante, no? Pronto? Sì, sì, lo sto seguendo, altro che, stavo anche guardando, insomma, altro che società civile, è proprio la società cannibale che descrive questa mattina con una sua vignetta sul Foglio. Eh già, perché da un lato quello si trova, Monti a destra e Ingroia a sinistra, che gli mangiano voti da tutti e due i lati, no, e quello là sta in centro così. Messo là un poco, il guaio di Bersani è che da un punto di vista, cioè, è un disastro. Se Bersani corre con la, vedi, Bersani vorrebbe correre con la stessa platea elettorale delle primarie, cioè, quella là fatta da funzionari del partito e da amici, da simpatizzanti, ecco va. Quando si trova fuori dagli iscritti del partito, quelli che vogliono loro, fuori, là già comincia un poco ad avere delle difficoltà, no? Acque aperte, insomma, qui siamo navigazione a largo, non più nell'ambito protetto. No, ma poi quello bello è questo, i sondaggi non valgono niente, perché la campagna, quando inizia la campagna elettorale è tutta un'altra storia, avendo, come dire, a metà tre quarti di indecisi, no, assolutamente. E durante la campagna elettorale può succedere di tutto, Grillo può prendere il 60%, ma lo stesso può fare Ingroia, lo stesso può fare Berlusconi, lo stesso può fare... L'unico che non lo può fare così è 60 Bersani, però come dire, ci provano tutti. Ecco, protagonisti dunque non mancano. Se c'è una cosa che possiamo, come dire, sottolineare di questi due mesi che ci attendono, scarsi di fatto, di campagna elettorale, che rispetto al passato c'è forse un po' meno il protagonista, soprattutto per voi, quindi Berlusconi al centro in qualche modo aveva catturato tutte le penne, tutte le matite, le attenzioni. Adesso forse è un po' consumato anche per chi fa satira? No, sì, ce ne sono, come dire, consumato, cioè se tu vedi sul Corriere lo sono costretto a rifarlo, perché quando Monti dice io non sono di centro, non sono moderato, dice chi è Berlusconi questo, scusi. Cioè, non è moderato, di... non è di centro, chi è? Interroga chi la è? Signora al commensale. Giocando Berlusconi? Giocando a canasta, là, dei giochi di Natale, e tu fai chi è Berlusconi, che, come dire. No, per cui in un certo senso rimane sempre, no? Poi come lui l'unica cosa che gli piace della politica è fare le campagne elettorali, lui non ha fatto altro, proprio lui ha le campagne elettorali, sia che vince, sia che, perché lui le ha fatte vincendo, perdendo, proprio il suo, il bello della politica, come dire. Quindi altro che un po' consumato per la satira, resta la superstar? Resta come dire, anche per il fatto che lui ogni giorno un po' cambia pelle, no? Un giorno è un po' tipo Aragosta, un altro è tipo Pesce Palla, dipende qual è, come dire, no? È uno che cambia quello dei capelli, no? Non è sempre uguale, un giorno mette il cappello, un giorno leva il cappello, un giorno va pure in treno. Ah, quel giorno che è andato in treno, tutti là, proprio ci cascano. In treno da Roma a Milano. Cioè, io vado in treno e nessuno mi dice, però in treno, paf, tutti là. Con la fidanzata che lo seguo 2 metri dietro, 2 metri avanti, perché lui è un po' islamico, bisogna dire, in questo. Dunque, Vincino, una vera manna per voi, una figura, come si dice in per altre circostanze, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Per chi disegna e fa satira, per chi fa la politica attraverso il tratto breve ma come dire, incisivo. E poi c'è la mancanza in queste elezioni, c'è Bersani che ha questo incubo. Dove chi manca? Renzi? Che fa Renzi? Renzi. Renzi, perché Renzi non... Perché, come dire, cioè Renzi sta facendo quello che aveva detto, io perdo, ritorno a fare il sindaco. E uno dice, come ritorni a fare il sindaco? Non è mai successo nella vita che uno c'ha il 40% del maggiore partito e non se lo gioca al casinò, no? Come si permette? E come si permette? E che questa, cioè, tutta la politica è un poco indignata su questa storia qua. Insomma, anche questo effettivamente è un taglio. Lui è, per ora devo dire, è totalmente assente in queste primissime ore. Perché non ho appoggiati Gori, che, come dire, praticamente è uno che nella vita ha fatto solo televisione e non sa fare altro, no? Va alle elezioni, e perde. No, dice, ma scusi, ma perché Renzi non mi ha appoggiato? Ma perché, scusi, ma tu da solo che cosa fai? Ecco, questi sono, diciamo, i vecchi, i classici, non chiamiamoli vecchi, i classici, come si usa per i dischi e i personaggi. Ma c'è qualcosa di nuovo da raccontare attraverso la satira? C'è qualcosa che emerge, che in qualche modo segnerà queste settimane a venire, secondo lei? Ma lo vedremo, sicuramente ci sarà, c'è tanto di nuovo, non è che io mi sveglio ogni mattina dicendo, guarda, cercando il nuovo, no? Per dire, una cosa che mi fa un po' indignare è questa cosa qua, che tanti dicono, ma l'Italia con tutte le ricchezze che ha, noi potremmo, mettendole tutte a posto, noi vivremmo tutta la vita felici e contenti sulle cose che hanno fatto i nostri padri, i nostri nonni, no? E noi stacchiamo solo i biglietti. Cioè, prima abbiamo vissuto sui nostri figli, no? Giocandoci le loro pensioni, le loro cose. Ora sui nonni. Mentre noi dobbiamo vivere su noi, su inventare noi, guardare noi e scoprire noi ogni volta e costruire noi qualcosa di nuovo ogni giorno. Però è così. È così, ed è sicuro nelle prossime settimane ci sarà appunto spazio e occasione. Ancora una cosa però a chiedere, e Grillo in tutto questo? Non è che io sia proprio mosciato, non è che sia proprio così vivace, almeno nelle vostre penne, le vostre matite, insomma mi aspettavo un po' di... Se è un po' mosciato, perché dopo la traversata dello stretto, che è stata una grandissima cosa che gli ha portato 20 deputati regionali, però dice: cavolo, me ne faccio di 20 deputati regionali? Come dire? No, uno c'ha 20 deputati regionali in Sicilia, ma poi in Sicilia che comanda solo il presidente, per cui non è che se ne fa molto. Poi però non è che può fare una traversata ogni settimana. Questo è il punto, no? E non gli sono venute altre idee, oltre quella là di fare una cacciata enorme a tutti quelli che come dire, volevano pensare, no? Cioè io ho un'idea, zitto, che cavolo ti permette di avere idee, quale idea ho soltanto io a Casaleggio, basta, vattene. Per cui là è rimasta questa cosa qua, e nel web è impietoso, no? Questa qua era proprio l'ha un po' ammosciato, no? Per cui si butta sulla folla, cerca di fare cose cretine, no? Io spero che la prossima volta che si butti dal palco sulla folla, quelli si aprono, lui pam, e qui lì ci sarebbe da disegnare, sicuramente. Vedere, questo è un problema che siamo sempre posti, il disastro dell'autore di Satira è questa cosa qua che ogni tanto diventa moralista e ci crede alle cose che disegna. Ecco, a proposito di disegnare come dove, ho ricordato ilmale.net. Il male, dicevo, è .net, il web ormai è il luogo sicuramente più vivace, più... Questo come cambia il vostro lavoro? Perché insomma il male è stata storica. Cambierà il nostro lavoro completamente, perché devo dire per ora è un poco... il sito, noi siamo da 15 giorni in pausa, no? E riprenderemo il 15 gennaio alla grande... Vacanze lunghe, Vacanze lunghe. Vacanze lunghe, esattamente. Così è. Ok, e si riparte dal 15 gennaio una grande galoppata su questa campagna elettorale. Esattamente, sulla campagna elettorale e su tutto quello che c'è intorno, perché poi non è che c'è il mondo, vero? C'è la vita oltre la politica, eh? Bravo, direi che questa è, c'è vita oltre la politica e ci sono cose che voi umani, grazie davvero a Vincino di essere stato con noi stamattina, di questa vita reale, quotidiana, delle sue complessità oltre la politica. Anch'io devo dire che già avverto quella che è l'overdose e chissà, sarà l'esperienza, appunto non è proprio la prima campagna elettorale che viviamo insieme, speriamo di essere smentiti, ma insomma di questa abbuffate di parole che tanto spesso produce proprio l'effetto di allontanare poi le cose reali. Delle cose reali noi invece parliamo tra pochi minuti, vi ho anticipato. Oggi affrontiamo un tema che a mio avviso, credo appunto che in molti sarete d'accordo, è estremamente politico, che è quello del tema della salute, il tema della sanità e di come in queste giornate l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza abbiano introdotto una serie di novità e tra l'altro ampliato quello che è l'elenco, il bacino delle cosiddette malattie rare e delle malattie croniche. Ecco, la salute un diritto, lo ricordo, in un paese che al di là di tanti luoghi comuni continua a vantare il secondo posto nelle classifiche internazionali per appunto la sanità pubblica. Lo abbiamo fatto ieri mattina, abbiamo ringraziato insieme ai colleghi tutti quelli che anche nella notte di Capodanno e tutte le notti lavorano nei pronti soccorso, nei luoghi di intervento e così via. Insomma, tra pochi minuti avremo con noi Ciglio Cerretelli, che è il presidente dell'Associazione Italiana Narcolettici, ma anche il vicepresidente della Consulta Nazionale delle Malattie Rare, con altri ospiti per parlare appunto di quanto a volte sia importante anche solo uscire da una zona d'ombra dove alla malattia si somma appunto una vera e propria colpa, un vero e proprio stigma sociale. 8:32 minuti, ancora un saluto, un buongiorno da Gigi Donelli per questo appuntamento, questa settimana in conduzione a 24 mattino, dunque le malattie rare. La Commissione europea, pensate, ha definito rare quelle patologie la cui incidenza non è superiore a 5 individui su 10.000 abitanti. Pochi, no? Bene, in Europa si stima che le persone affette da malattie rare siano tra i 20 e i 30 milioni, in Italia circa 2 milioni, insomma un gruppo che è di fatto raccoglie qualcosa come 7.000 patologie spesso fatali o croniche o invalidanti e che rappresentano nel loro complesso circa il 10% delle malattie che colpiscono l'umanità. In questi giorni ne abbiamo parlato l'altro ieri, il ministro della Salute Balduzzi ha aggiornato i livelli essenziali di assistenza. Tra le introduzioni, le novità, si è parlato giustamente di epidurale, dell'introduzione di tutta una serie di, appunto, di livelli essenziali, appunto, che allarga il bacino di ciò che è preso in carico dal sistema sanitario in maniera più impegnativo, ma vengono introdotte anche 110 nuove malattie rare, 5 malattie croniche. Allora, vi ho anticipato subito il nostro primo ospite, Icilio Cerretelli, buongiorno intanto. Buongiorno a lei e a tutti i suoi ascoltatori. Allora, vicepresidente della Consulta Nazionale delle Malattie Rare, lei è anche presidente dell'Associazione Italiana Narcolettici, ma vorrei prima appunto che ci offrisse un quadro. Perché è importante che questo elenco, che la LEA introduca e prenda coscienza di 110 malattie rare in più? È importante perché si può dare delle agevolazioni a questi malati che da ormai tanti anni aspettano l'inserimento di queste malattie, che si parla già, il ministro Turco aveva evidenziato. Però si spera che questa volta l'indicazione del ministro Balduzzi sia accettata sia dal Tesoro che dalle regioni. Perché non è automatico, innanzitutto. No, non è automatico, se no erano già state inserite a suo tempo. È una buona iniziativa quella del ministro, che ha dato indicazione dell'inserimento di queste nuove 110 patologie, ma ora bisogna aspettare che il Tesoro e le regioni deliberino. Ecco Cerretelli, perché la salute costa soprattutto se si ha a che fare con patologie rare, di fatto. Costa anche perché poi ci sono degli esami che bisogna fare per monitorare la patologia, e questi esami possono essere anche abbastanza costosi, il ticket porta a delle spese notevoli, e quindi molte patologie hanno bisogno di essere monitorate con analisi che sono indicate per vedere quella patologia, e l'esenzione al costo può dare un aiuto, anche se queste 110 è soltanto un inizio, perché molte altre sono in attesa di essere riconosciute. Malati sono tutti uguali, serie A e serie B non ci deve essere. Non ci dovrebbe essere, di fatto però rischia di essere tale, soprattutto quando il fattore, che lo ribadiamo, dobbiamo sottolineare, quello economico, viene a complicare le cose. Ecco, io ho parlato di stigma e quindi di marchio, di colpa, la malattia in generale, come la vecchiaia, insomma ci sono la nostra storia dell'umanità è fatta anche di questo, ma c'è anche un elemento di incoscienza o di non consapevolezza. Giuseppe Plazzi, ricercatore del Centro di Medicina del Sonno di Bologna, buongiorno, grazie di essere con noi. Buongiorno. Ecco, quando parliamo per esempio di narcolessia, con le varie declinazioni, io avverto personalmente proprio l'incapacità a capire esattamente di cosa si tratta e soprattutto di coglierlo nelle persone che ne sono colpite, cioè quello che mi sembra imbambolato, quello che mi sembra magari giovane, magari uno studente, magari che quasi si ferma, il mio pensiero non è chissà che cosa avrà, che forma di patologia avrà, ma che ne so, questo dorme o non sta in piedi, eccetera. Quanto è importante questo e nel lavoro che fate? Questo è molto importante. Innanzitutto la narcolessia come tale, narcolessia con cataplessia, è una malattia, ed è anche una malattia grave in molte persone che la portano, quindi non è un sintomo di stanchezza e basta, è una malattia che caratterizzata da una serie di problemi, innanzitutto una sonnolenza importante, patologica, delle cadute scatenate dalle emozioni, allucinazioni, paralisi del sonno, e il rischio importante di questi pazienti è di ricevere delle diagnosi sbagliate e quindi poi di avere dei percorsi nella loro vita che li sottopongono a trattamenti erronei, a emarginazione, eccetera. Ecco, quanti uomini, donne, che età, chi colpisce questa malattia? Colpisce soprattutto i bambini. Inizia nell'infanzia ed è una malattia cronica che perdura per tutta la vita. Cioè non si guarisce dalla narcolessia? No. Non si guarisce, ma la si può trattare con dei farmaci sintomatici. La ricerca è molto attiva, perché è anche una malattia, diciamo, molto interessante dal punto di vista delle implicazioni terapeutiche anche per altre malattie del sonno, a partire dall'insonnia. Per cui la ricerca è molto viva, i farmaci nuovi sono, diciamo, sulla nostra porta di casa, i farmaci sono costosi chiaramente. Per fortuna la narcolessia è una malattia rara, già ormai da più di 10 anni in Italia, e questo consente ai pazienti che ricevono la diagnosi di avere dei trattamenti adeguati. Quando dice perché costose, cosa intende? Sono farmaci che costano centinaia o anche qualche migliaio di euro all'anno. Migliaia di euro all'anno. E da questo tipo di farmaci sono coperti, quindi il punto, lei dice, è la diagnosi come prima diciamo passaggio anche per poter beneficiare poi sì, del servizio sanitario. E non è così facile diagnosticare una narcolessia, mi sembra di capire. No, evidentemente non è facile, perché in tutto il mondo la narcolessia, tra le malattie rare, che pur sono tutte sottodiagnosticate, è tra le più sottodiagnosticate. Neanche una persona su 10 nel corso della sua vita giunge alla diagnosi corretta. E per raggiungere la diagnosi in Europa occorrono mediamente più di 10 anni. Quindi tra l'esordio dei sintomi e nel momento in cui si dice alla persona sì, tu hai una narcolessia e per questa può essere curata, trascorrono mediamente 10 anni. Perché, dottor Plazzi, non capisco, mi aiuti a capire, perché 10 anni per arrivare a dire hai questa patologia? Per la stigmatizzazione delle malattie rare, l'emarginazione è dovuta anche a questo, che sono malattie anche molto poco conosciute. La narcolessia, nonostante appunto l'aggettivo narcolettico lo si usi con abbastanza, con un'estrema facilità anche nella vita quotidiana, la malattia come tale è sconosciuta anche ai medici. E devo dire che le campagne di informazione, cioè mostrare i sintomi della narcolessia, parlare di narcolessia sulla radio, sulla televisione, sui giornali, ottengono spesso un ritorno diagnostico molto più importante dell'insegnamento della medicina. Ci mostri qualche sintomo allora, ci aiuti, come dire, per quanto siamo in radio, a dotarci anche di una capacità appunto di riconoscere. Innanzitutto la narcolessia, come ho detto, compare nel bambino, quindi la comparsa di una sonnolenza che non c'era più, per esempio il bisogno di fare il pisolino il pomeriggio quando il bambino di 7-8 anni aveva già smesso di farlo, oppure una sonnolenza a scuola, addormentamenti a scuola, e poi delle cadute scatenate dalla risata, per esempio dal riso, o dei cedimenti muscolari scatenati dalle emozioni, un sonno notturno estremamente disturbato che compare improvvisamente in pochi giorni. Questi sono i sintomi più caratteristici, assieme ad altri disturbi metabolici importanti, quali per esempio un aumento di peso repentino. Insomma, fenomeni repentini, improvvisi, pensate, non sapevo, lo sento con voi, la risata che si trasforma, cosa di fatto, in un blackout, in uno spegnimento dell'attività fisica. Saluto anche e completo dunque la presentazione dei nostri ospiti. Ines Benedetti, buongiorno. Ines Benedetti, che saluta Icilio Cerretelli. Ines Benedetti è presidente dell'AILS, Associazione Italiana Lotta alla Sclerodermia. Di cosa si tratta? Sì, si tratta, è una malattia autoimmune, cronica, rara, diciamo evolutiva. Il sistema immunitario aggredisce in modo anomalo l'organismo del malato. Il bersaglio preferito sono le cellule endoteliali, che sono i rivestimenti interni dei vasi sanguigni. Questo fenomeno patologico porta ad una maggiore produzione di collagene, portando la fibrosi degli organi colpiti, cioè causando la fibrosi degli organi colpiti. È una malattia di cui si parla pochissimo. Il rapporto è una malattia che predilige le donne, il rapporto uomo-donna è 10 a 1. siamo circa 20.000. In Italia. 20.000 in Italia. 20.000. Non è un dato sicuro perché non c'è la possibilità di una registrazione, non essendo, noi siamo tra le famose 109 patologie. Il nostro calvario è stato che si parla tanto delle regioni che devono dare il consenso, ma su queste malattie il consenso le regioni l'avevano dato nel 2003, perché nel 2004 dovevano essere aggiunte nel famoso elenco delle malattie rare. Questo cosa implica nella pratica quotidiana di chi fa i conti con questa malattia? Che si muore di questa malattia. Il 50% delle persone non curate nei primi 5 anni muore, la percentuale è questa. La cura c'è? No, non esiste cura e anzi, se fosse entrata come malattia rara avremmo potuto utilizzare dei farmaci off-label, cioè farmaci destinati per altre patologie, ma che si è visto che possono fare qualcosa anche sulla nostra. Cioè frenare l'evoluzione. L'evoluzione, infatti. È una malattia molto complessa perché colpisce gli organi interni, colpisce l'esterno, praticamente la cute che si indurisce, cambia i lineamenti delle persone. Prima si parlava della colpa, dello stigma sociale, eccetera, eccetera. Quindi qualche cosa che è invalidante anche nel rapporto con la società. Le nostre malate si nascondono, non frequentano, non c'è neppure una vita di associazione con i nostri malati, se non noi che andiamo a trovarli in dei hospital quando fanno le cure e cerchiamo di creare dei contatti, ma è difficile perché quando il viso di una bellissima donna, o anche meno bella per carità, certo, il naso scompare, le labbra pure, si vedono i denti, non riescono a masticare, non riescono ad andare dal dentista e diventano veramente anche psicologicamente, certo, distrugge la devastante. Persona. Signora devastante. Benedetti, dunque questo è naturalmente per darvi uno spaccato, le vostre associazioni, voglio farlo subito e lo rifarò appunto in conclusione, c'è una rete di cui Icilio Cerretelli, che lei ha salutato in apertura, svolge un ruolo di coordinatore con lei e molti altri, perché se c'è una risposta alla complessità delle malattie rare di chi le soffre è proprio quella della società civile, che si mette insieme, che fa pressione e che pretende di far sentire la sua voce. Non dimentichiamolo mai, se penso che tra le grandi conquiste del nostro tempo c'è quello di avere portato fuori dalla vergogna, dalle case, dai luoghi chiusi, l'handicap, i problemi dei bambini down e tanti altri, però come sentite ci sono delle forme nuove che, come ci descriveva appunto Inis Benedetti, invece restano totalmente non affrontate. 8:46, viabilità allora e poi torniamo con i nostri ospiti. Icilio Cerretelli, vicepresidente della Consulta Nazionale delle Malattie Rare. Parlavo di rete, ci può dare qualche contatto anche per chi dovesse sentirci, sentisse il bisogno appunto di avere informazioni pratiche, dirette, come si raggiunge la rete delle persone che lavora, alcuni da molti anni, su questi temi? Sì, io faccio parte della Consulta Nazionale Malattie Rare, abbiamo un sito, se uno digita Consulta Nazionale Malattie Rare appare il nostro sito e lì ci sono tutti i contatti. Noi da molto tempo come consulta, già dal 2003, stiamo lavorando per l'inserimento di queste patologie. Sappiamo benissimo che le 109 non sono risolutive del problema perché ne rimarranno fuori sempre tantissime, ma spero che questa volta preso in considerazione l'appello del Ministro, l'indicazione del Ministro, e che finalmente queste 109 possano entrare a far parte delle malattie rare riconosciute. Sarebbe un piccolo tassello che dà inizio a quel percorso virtuoso che doveva essere dal 2003 in poi dell'inserimento via via di nuove patologie. La Consulta Nazionale delle Malattie Rare, come sanno tutti i nostri confederati, è da tanti anni che si batte per questo e continuerà, perché la nostra idea è quella di agire sul territorio. Per questo, come ha detto lei, abbiamo bisogno che, siamo già molti, ma abbiamo bisogno che altre persone ci contattino, non solo per associarsi, ma per darci indicazioni di quello che hanno necessità, e noi, quando saremo presso le istituzioni, porteremo avanti le loro istanze. Con tutta la passione che abbiamo sempre avuto e che avremo sempre. Ecco, passione che possiamo dirlo nasce anche dal coinvolgimento. Quasi certo. Tutti voi siete, diciamo, diventati vostro malgrado protagonisti, o quantomeno avete innescato un impegno su delle esperienze familiari. Ancora, ci dia qualche esempio. Quali sono le implicazioni, i costi familiari di una narcolessia in casa? In casa sono i costi. Il primo costo è la diagnosi, perché volendoci 6, 8, 10 anni, lei tenga presente, per andare a fare un qualsiasi tipo di analisi, facendola attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, ci vuole troppo, e quindi i genitori si passa al privato. Ecco, esatto, e si paga. Spende un sacco, e facendo spendere un sacco anche alla sanità pubblica, certo. Perché se uno spende 10 milioni 10.000 euro, ecco, le milioni, lo riparlava alle lire, perché mio figlio ha 37 anni e quando ha avuto la diagnosi c'era alle lire, e anche altrettanto le spende la sanità, per non avere niente in cambio, perché si fanno pellegrinaggi, non solo per la narcolessia, per tutte le malattie, perché purtroppo la medicina non conosce queste patologie, perché me lo faccia dire, io sono cattivo, essendoci poco business c'è poco interesse per queste malattie rare. Certo, però non capiscono, la sanità purtroppo non capisce che una diagnosi precoce servirebbe molto per abbassare i costi della spesa sanitaria. Anche se, tanto per rispondere a tono quello che diceva lei sul poco business, abbiamo visto che le malattie rare, lo ribadisco, riguardano tra 20 e 30 milioni di persone in Europa, quindi magari c'è un'assunzione anche più ampia, in cui diventa anche un business, perché non è questo capire. Certo. Anche, per esempio, noi abbiamo un farmaco che costa, parlavate di farmaci, costa, un farmaco che ha 50 anni, la molecola si chiama GHB, che ha un costo di 800 euro al flacone. E quanti ne servono in un mese? Un narcolettico ne prende 3 al mese. 800 a flacone, 2004, quindi questo è solo... Vede, ecco, fortunatamente la narcolessia è riconosciuta malattia rara, ha un codice di esenzione, e una particolare legge delle malattie rare fa sì che questo farmaco, pur essendo in fascia A, venga passato gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale. Se la patologia non era riconosciuta come malattia rara, certo. E chi si curava a 2.400 euro al mese? Solo chi può permetterselo. Dottor Plazzi, a proposito di centri, di riferimenti, appunto di luoghi dove anche raccogliere le competenze, Bologna diventa uno di questo. Ci dica qualcosa del centro di medicina del sonno. Beh, il centro di medicina del sonno, in Italia esiste una rete di centri di medicina del sonno che fa capo all'Associazione Italiana di Medicina del Sonno. La medicina del sonno non è ufficialmente una specialità medica, ma comunque ci sono tante specialità mediche che stanno convergendo su queste tematiche, dai neurologi, gli otorini, gli pneumologi e anche i pediatri. Quindi esiste questa rete di centri che sono esperti nella diagnosi e nel trattamento dei problemi del sonno. Che va fatta la diagnosi in centri che devono presentare dei requisiti minimi. Innanzitutto devono poter studiare il sonno e la sonnolenza di questi pazienti, per cui devono essere dotati di attrezzature e spazi idonei. E naturalmente immagino richieda tempo. Sì, una diagnosi per una patologia del sonno richiede spesso qualche giorno di ricovero. Ecco, dei 3-4 giorni di ricovero. Quindi, ecco, queste strutture sono strutture pubbliche? Sono strutture sostenute? Sono strutture pubbliche, certamente. Nascono all'interno di ospedali pubblici o privati, ma comunque convenzionati. Quindi, il centro di Bologna è un centro che nasce dentro una struttura universitaria convenzionata. Quindi chi ha bisogno sa anche quantomeno nel dubbio dove poter rivolgersi. Abbiamo detto, il dottor Plazzi l'ha detto, riguarda, come dire, si manifesta nei bambini, per cui in una fase naturalmente in cui a fianco come dire, questo compito più che mai viene, questo compito di prima indagine, analisi, viene affidato ai genitori. Signora Benedetti, per quanto riguarda, abbiamo detto che questa è politica, questa è davvero politica con la P maiuscola, che cosa si aspetta nella pratica in una campagna elettorale da cui non possiamo, credo, sperare che i temi della sanità emergano troppo spesso, ma insomma ci sono delle urgenze e delle esigenze che riguardano molte famiglie italiane, quali sono quelle da sottolineare? Il fatto che sia vera questo passaggio già delle 109 patologie. Lei è molto scettica su questo. Sì, sono molto scettica, sono rimasta delusa nel 2008, anche perché io non credo al fatto della revisione dei LEA. I LEA andavano fatti, ma non c'entravano nulla con le 109 patologie, perché le 109 patologie si basavano anche allora già con i livelli esistenziali che c'erano già. Cioè allora, lei dice il ministro l'ha messo in lista e dopodiché si fermerà strada facendo o comunque... Sì, no, perché è stato uno sbaglio dell'onorevole Turco, le ha messi insieme, ha messo in LEA con le 109 patologie, erano due cose diverse, noi non avevamo chiesto un aggiornamento allora del LEA, a noi stava bene entrare nel famoso elenco delle malattie rare, perché avevamo già la copertura. Poi passando gli anni c'è stato bisogno anche della revisione del LEA, per cui ha bloccato anche le 109 patologie, cioè è stato veramente dal mio punto di vista un errore di non so come se voluto di strategia, tra l'altro, come consulta di cui anch'io faccio parte, ci siamo battuti anche nel 2009 con il ministro di allora Fazio, chiedendo di scorporare, lui aveva promesso, sì, scorporiamo così le 109 patologie, poi non se ne è fatto nulla. Insomma, la sua paura molto chiara è che alle parole non seguano i fatti e non sarebbe la prima volta. Infatti. Grazie di essere stato con noi. Con Cilio Cerretelli, in conclusione, c'è un forte scetticismo, la preoccupazione tra le parole e i fatti. Sì, purtroppo lo scetticismo viene dai fatti. Dall'esperienza. Dall'esperienza. È dal 2003 che aspettiamo questo inserimento. Come ripeto, anche se non è esaustivo di tutte le malattie rare, sarebbe un segnale per un inizio. Alcune regioni, non faccio nomi di regioni, hanno già inserito da diversi anni queste malattie e danno l'assistenza come se avessero la certificazione ministeriale, non so, e quindi potrebbe essere una maggiore spinta per accelerare i tempi e per arrivare finalmente a un atto di civiltà nei confronti delle malattie rare, di tutte le malattie, ma delle malattie rare in particolare, perché i malati rari, sono malati due volte, sono malati perché malati e malati perché la patologia interessa a pochi. Ecco perché abbiamo scritto malattie rare, ma una battaglia di tutti. Grazie a Cilio Cerretelli, ricordo consulta nazionale delle malattie rare, grazie al dottor Giuseppe Plazzi, alla dottoressa Ines Benedetti, grazie a voi di essere stati con noi questa mattina. Ora GR24, poi la politica, abbiamo appunto uno dei leader della politica italiana, chissà, sentiremo se parlerà tra l'altro anche di sanità, di tanti altri temi. A domani intanto.